Capitolo 6. Raccontare. A. Le luci. 1. Ascolta il brano. Signora, si ricorda che cosa accadde la sera del 10 settembre? Vede, i miei ricordi sono un po' confusi. Sono passati più di 30 anni. Ricordo che uscimmo di casa dopo cena. Restammo in veranda per un po', poi iniziamo a notare quelle luci in lontananza. Sa dirmi a che ora vedeste le luci? No, mi dispiace. Fu allora che vide suo marito per l'ultima volta? Purtroppo sì. Lui decise di andare a vedere da vicino. Sapevamo che in quella terra non c'erano case. Mio marito pensò a un incendio e volle andare a vedere. Era estate, faceva molto caldo e sapevamo che con quelle condizioni un incendio sarebbe stato pericolosissimo. Sfortunatamente non riuscì a fermare mio marito. Non deve avere rimpianti, signora. Non poteva immaginare. Lo so, ma ogni giorno mi chiedo perché non l'ho accompagnato. Da giovane ero molto paurosa, tremavo di paura ad ogni piccolo rumore. In realtà ebbi paura di accompagnarlo. Ora tutto è cambiato. Vivo da sola adesso e in questa zona la gente non viene ad abitare. Non ho nessuno vicino a me, eppure non ho paura. È strano, non è vero? È vero, signora. Senta, quando notò i segni nei campi? Non li notai io. Da vicino non era possibile distinguere quei cerchi perfetti. Furono degli scienziati che, qualche giorno dopo, dagli elicotteri, fotografarono quei disegni.